Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Per gli intossicati a oltranza, per i tossicodipendenti da pallone, segnalo stasera alle 20 Tottenham-Chelsea di Premier League e a seguire Barcellona-Ospitalè di Coppa del Re. Ma da noi, se Dio vuole, la gran buffa è finita ieri sera e se ne riparla non prima di sabato 7 gennaio. È finita con una serata divertente, anche un po' bislacca. A cominciare da San Siro, dove prima di segnare 4 gol l'Inter aveva colpito 4 pali in 10 minuti. Ora, mi segnala lo statistico Franco Piantanida che nella stagione 2008 il Cagliari aveva colpito 4 pali giocando in casa con il Livorno, però insomma, intanto non in 10 minuti e poi è proprio la scansione di ieri sera, no? un gol del Lecce, tra l'altro magnifico, e poi 4 pali dell'Inter, poi a seguire 4 gol dell'Inter invece, ma sul 2-1 altre possibilità per il Lecce di pareggiare. Io credo che 4 pali in 10 minuti, ma poi 4 pali così pieni, non il palo esterno, la cosa scheggiata, eccetera, siano un record. Altri dati statistici, beh, finché ne volete, perché lo statistico di cui sopra, fiutando aria di vacanze, si è scatenato. Allora, il Milan è in testa al campionato per la prima volta in questa stagione e l'ultima volta che era stato in testa insieme alla Juventus, visto che sono tutte e due a 34, era il 1 maggio 2005, a 4 partite dalla fine, a pari punti a 76, ma la settimana successiva lo scontro diretto con la Juve a San Siro vide il sorpasso della Juventus con un gol di Trezeguet. Il Milan è la squadra dell'anno solare, perché nel 2011, se prendiamo per l'appunto in esame le 37 partite del 2011, 21 giornate dell'anno scorso e 16 di questa, il Milan ha fatto 80 punti, vincendo 23 volte e perdendo solo 3, seguita dall'Udinese, che è la seconda con 75, l'Inter 73 e poi via via il resto del gruppo. Di Natale è il cannoniere del 2011 con 28 gol, seguito da Cavani a 25, Ibrahimovic a 16. E poi tante altre curiosità ancora, non so, Lazio-Chievo per esempio, pensate che in 10 confronti di rete all'Olimpico la Lazio ha vinto solo una volta col Chievo, che dunque è certamente la sua bestia nera, e Sorrentino ieri sera, portiere del Chievo, non si è sporcato i guanti, al pari di Buffon peraltro, direi, no? al Friuli, e quindi in compenso Bizzarri, portiere della Lazio, ha fatto una serie di miracoli. E d'altra parte questo conferma una tendenza, fa molta fatica la Lazio in casa quest'anno, avendo ottenuto solo 13 punti sui 30 disponibili. Se invece torniamo all'Inter, è la sesta vittoria nelle ultime 7 partite, di cui 4 consecutive. E questo secondo me comincia a integrare qualche riflessione, nel senso che non si può dimenticare che proprio 2 anni fa Ranieri compì una rimonta assolutamente incredibile con la Roma, partendo persino da condizioni peggiori. Ora tutto lascia pensare che il campionato si articolerà in un duello tra Juventus e Milan. L'Udinese a 2 punti certamente è ancora competitiva, come lo è la Lazio a 4, anche se comincia qualche colpo a perderlo, però una squadra a 8 punti, una squadra come l'Inter, secondo me con 23 partite ancora da giocare, non è certamente, o 22 partite ancora da giocare, 22, non è certamente tagliata fuori, ma nemmeno Napoli e Roma a 10 lunghezze sono tagliate fuori, perché 22 partite vuol dire 66 punti a disposizione. Sono ancora veramente tanti. Bene, ne parleremo insieme. Scatenatevi anche voi oggi, perché i vostri interventi in diretta riprenderanno poi soltanto con il 2012, pur essendo a Tempo di Sport sempre regolarmente in onda anche nelle prossime 2 settimane. Notizie di giornata dal calcio italiano non ce n'è, perché ieri sera è scattato il consueto rompete le righe natalizio. Ce n'è una che arriva da Parigi, perché Leonardo ha comunicato a Comboiré, al suo allenatore Paris Saint-Germain, di aver deciso il suo esonero, e in giornata si saprà il nome del nuovo allenatore, che dovrebbe essere Rijkaard, ma non si esclude che Leonardo abbia convinto o stia cercando ancora di convincere fino all'ultimo Carlo Ancelotti. Allora, mentre voi vi prenotate, sentiamo Sì, il grido di dolore direi di Guidolin, no? Ieri sera a Udine, non tanto per l'andamento della partita quanto perché l'Udinese è arrivata veramente sulle ginocchia a questa partita importantissima con la Juventus e si è visto che ha palesemente giocato solo per non perdere, ma per ragioni proprio di consunzione direi più che di usura. Guidolin. No, è un buon punto, anche se noi abbiamo cercato di vincere la partita fino alla fine e credo che il risultato sia giusto perché abbiamo affrontato una grande squadra come la Juventus che secondo me insieme al Milan rappresenta per il momento il meglio. Certo fossimo stati più brillanti e avessimo avuto la possibilità di prepararla magari con un giorno in più, ma io credo che sia umanamente impossibile pensare che una squadra che va forte come l'Udinese possa andare fortissimo alla terza gara dopo 5 giorni e 20 ore. Credo che sia umanamente impossibile anche con un calendario di questo tipo una mancanza di rispetto nei confronti dei calciatori e della gente. Basterebbe avere un campionato un po' più corto e con 4 squadre in meno e secondo me tutti ne trarrebbero vantaggio, le squadre che giocano le coppe, le nazionali, gli allenatori che potrebbero, i giocatori stessi per la salute loro. Beh, assolutamente d'accordo e non da oggi su questa impostazione. Certo bisogna tornare almeno a 18 squadre e possibilmente a 16 e visto il livello di certe squadre sinceramente non credo che la Serie A ne avrebbe un danno, anzi ne avrebbe un beneficio, come Guidolin giustamente sottolinea. Dove andiamo a pescare qualche altra voce interessante, ma soprattutto significativa direi rispetto potremmo sentire la spiegazione di Conte anche perché arrivano alcuni messaggi, non so, Alessandro La Modena dice più che il nuovo Lippi, Conte sembra il nuovo Trapattoni, perché tatticamente la Juve da trasferta è attenta soprattutto a limitare i danni. Beh, mi sembra un segno di saggezza, mi sembra un segno di maturità e comunque limitare i danni, forse con lo schieramento iniziale sì, per via di questa insomma, difesa schierata in la squadra un po' bloccata, un solo attaccante di ruolo, però la Juve non ha mai rinunciato, ha certamente avuto parecchie iniziative in più dell'Udinese, se c'è una delle due squadre che ha provato a vincere, che ne dica Guidolin, è stata certamente la Juve, che d'altra parte stava fisicamente meglio, anche se non mi è sembrata più brillante come in certe altre fasi, perché gli impegni ravvicinati poi li accusano tutti, anche quelli che le coppe non ce l'hanno. Sentiamo Conte. Ma forse è mancato, bisogna sempre tenere conto che di fronte oggi si affrontavano le due migliori difese del campionato, quindi l'Udinese nelle 7 partite precedenti aveva sempre vinto, fatto 14 gol, subito solamente 2. E penso oggi che la squadra ha dimostrato di essere squadra sotto tutti i punti di vista, solidità, forza, perché non è da tutti comunque venire a Udine a fare la partita, creare delle situazioni abbastanza importanti a differenza loro. Sì, io avrei visto Matri e visto poi Quagliarella, insomma, è il senno di poi, come sempre o come spesso, però insomma già la partita precedente, già domenica si era vista Quagliarella, la condizione, la forma l'ha ritrovata e mi sembra che in non molti minuti che ha avuto a disposizione abbia fatto molto più di quanto non avesse fatto il suo predecessore. Poi ci sono altri interventi divertenti, a cominciare da quello di Luis Enrique. Mi scusi, scrive un ascoltatore, ma se tra 3 giornate finisce l'andata, la prima di ritorno sarà tra le squadre di ieri sera? Beh, penso proprio di sì, io credo che ritornerà a esserci il calendario normale e quindi le rivincite di ieri sono insomma, a breve termine, certamente a brevissimo termine. Sentiamo dopo questa vittoria di Bologna in cui si è vista la miglior Roma di stagione con questo progetto famoso di Luis Enrique che comincia insomma, a convincere, se non in qualche caso addirittura a decollare, no? In certe fasi di partita, sentiamo che cosa ha detto Luis Enrique. No, mira, oggi abbiamo mangiato pandoro e panettone, cioè che quello io ho riuscito a farlo, già mi mangio il panettone a Roma, così che tutti quello che non volevano che lo mangiara già non è possibile. No, faccio un scherzo. No, non è un passo indietro. Contro l'Udine A Spagna il torrone, si dice, e l'allenatore non si mangerà il torrone. Beh, insomma, una mangia, per esempio, beh, vecchissimo gioco di parole, non ha mangiato, insomma, non c'è arrivato al panettone, nonostante il rito, insomma, nonostante lo scongiuro di sabato scorso in cui l'aveva portato alla vigilia della partita, che poi gli è costata invece la panchina. Guidolin si ricorda che ieri sera hanno giocato i signori giocatori che hanno preferito scioperare in agosto, e lei si ricordi che lo sciopero di agosto si è scritto sciopero, ma si leggeva serrata dei presidenti, perché poi ho visto veramente c'è una disinformazione nel tempo, che si stratifica nel tempo, che è, io non, adesso non voglio usare aggettivi troppo carichi, ma insomma è comunque sconcertante, perché si era riusciti, no, nell'immediato allora a ricostruire, a far chiarezza e a far capire che non erano stati i calciatori alla fine a non voler giocare la prima partita, ma erano stati i dirigenti falchi di alcune società che avevano convinto gli altri alla rottura, però sono bastati 3-4 mesi, e dato che la parola sciopero suona meglio, no? Fa un pochino più effetto, e allora avanti con lo sciopero dei calciatori. Armando dalla provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Io ho un debito di riconoscenza che voglio sciogliere con Guidolin. Io tifo Udinese da quando avevo 10 anni, da quando Zoff e Jordi, beccandoci 5 gol dalla Fiorentina. Sì. Detto questo, è perché Guidolin nella prima conferenza stampa della nuova stagione ha detto: voglio una squadra, ascolti bene, educata, solidale e che abbia fame. Abbiamo già vinto. Sì. Un programma così merita, come dire, la mia eterna riconoscenza. Forse finirò per tornare allo stadio se queste cose si realizzano. È disposto, grazie anche Guidolin, grazie Checco e grazie Garanzini. Grazie a lei, Armando. È disposto persino a questo rischio estremo di tornare allo stadio. Mirko scrive: scusate, sarò anche fuori tema, ma c'è speranza che con l'arrivo del 2012 si possa avere finalmente una nuova sigla? Questa, come d'altra parte quella classica, è veramente brutta e ci mette una serie di punti esclamativi. Pensi che io ho detto tra noi che non ci ascolti nessuno, lo penso da 12 anni, semplicemente, ma evidentemente ci sono delle abitudini cristallizzate, ci sono dei marchi che come tali vanno difesi, e in questo c'è indubbiamente una logica. Dunque, girano voci, vabbè, girano da ottobre, settembre forse anche, girano voci su Malesani non proprio completamente rassicuranti. Non so che cosa, dove potranno approdare. Certo che ieri sera al Genoa ha preso 6 gol, 2-3 di questi imbarazzanti. Certo anche che dati contraddittori, Genoa da una parte ha 21 punti, quindi è in una posizione di classifica tranquilla e più o meno rispetto all'organico ha fatto il suo. È vero anche che il suo l'ha fatto grazie ad almeno un paio di vittorie molto fortunate in casa, che potevano anche essere sconfitte. Io ricordo per esempio Genoa-Novara e a maggior ragione Genoa-Bologna, perché è un ricordo fresco di domenica scorsa. Sono 6 punti che, se erano 0 o 1, credo che avrebbero meglio rispecchiato, come si dice, l'andamento delle partite. Sentiamo Malesani su questa sberla presa a Napoli. No, il Napoli ha fatto tutti i gol che poteva fare, questo io credo che per uno sportivo deve accettare, poi anche noi magari ci ricorderemo. Io spero che questo sia il viatico per poi il girone di ritorno, insomma, quando li affronteremo anche noi dovremo essere spietati con loro come lo sono stati con noi. Il Napoli non è che ha fatto niente per non fare i gol oggi, il Napoli ha fatto tutti i gol che poteva. Ma è semplice l'analisi, molto semplice. Uno, la squadra era spremuta, poi seconda cosa, ho provato a fare una squadra un po' più offensiva per la prima volta, e questo, come temevo, non ce l'ha nel DNA. Torniamo a Udinese-Juve, perché è giusto far notare, è interessante far notare che è la prima partita che l'Udinese in casa non vince e in cui non segna, e di conseguenza dopo le 7 vittorie consecutive iniziali. È anche la seconda volta, quindi non la prima, la seconda che la Juve non segna in campionato, dopo lo 0-0 sul campo del Chievo. Se parliamo di situazioni di classifica, all'indomani dello scontro diretto a Torino vinto dalla Juventus 2-0, c'erano tra Juventus e Milan 6 punti, era il 2 ottobre e in 2 mesi e mezzo la Juventus si è fatta rimontare, ma insomma le rimonte, i veri sorpassi, le vere rimonte eccetera in genere cominciano poi verso i primi caldi, no? E quindi si starà poi a vedere in primavera che cosa accade. Qualche altra curiosità più tardi? No, per esempio anche una subito, il Napoli, ne parlavamo adesso, il Napoli non segnava 6 gol dal 2000-2001, Napoli regina 6-2, sì, nei giorni scorsi si parlava di una crisi di Cavani, ma Cavani 2010-2011, prime 16 giornate 9 gol, 2011-2012, prime 16 giornate 9 gol, quindi le crisi sono un'altra cosa. Franco ha chiamato la provincia di Cremona, buongiorno. Buongiorno e buon anno. Dica. Dunque, prima di tutto due cose che veramente mi hanno fatto ricevere, perché leggendo i giornali uno ha subito voglia di... Dobbiamo richiamarla, Franco, scusi, perché c'è una pessima linea ed è incomprensibile. Saverio da Pesaro, buongiorno. Buon pomeriggio Garanzini e buon Natale a tutti. Sì. Senta, per quanto riguarda il discorso di Malesani, mi sa che non sia tanto corretto dire che il Napoli non si sia fermato, perché io la partita l'ho vista ieri, ma non ha fatto niente per fare altri gol. Dopo il decimo del secondo tempo si è fermato letteralmente il Napoli. Non solo, ma neanche sbagliati un paio già fatti Cavani, mi sembra. Sì, ne ha sbagliato un paio già fatti, ma non è merito del Napoli, l'assicuro, è merito della difesa del Genova. Quindi secondo me è inutile che sta a recriminare al ritorno, vedremo, facciamo, perché secondo me deve fare solo un mea culpa che il Genova ieri non era all'altezza della situazione. Mi sembrava una squadra di Serie A con una squadra di Serie C. Secondo me, poi Napoli che è forte, però a dire ci rivedremo al ritorno, a minacciare, dai, un no, po' di sportività. Sì, questo sì, ma non mi sembra, no, non mi sembrava minaccioso, mi sembrava sinceramente un artificio dialettico magari non riuscitissimo da parte di uno in difficoltà che non sa bene cosa dire, come è normale che sia quando prendi 6 gol. E tutto sommato che ne dica lui, ti è ancora andata bene, perché ripeto, Cavani altri 2 comodi proprio li ha sbagliati. A proposito di Roma, a proposito di Totti, mi fa notare Franco Piantanida un dato molto interessante. Allora, la Roma senza Totti ha ottenuto 2 vittorie e 5 sconfitte, la Roma con Totti ha ottenuto 5 vittorie e 3 pareggi e 1 sconfitta, a proposito di palle al piede, no? Secondo alcuni. Vediamo se è migliorata la linea dalla provincia di Cremona. Franco, vi faccio ancora gli auguri di buon Natale. Benissimo, adesso stavo dicendo bene. Che le sue parole prima è meglio ascoltare lei che leggere i giornali. Questa mattina prendo il giornale, c'era scritto Conte da Oscar, ma vedi qua e di là. Parlano di squadre che sono indietro 11-12 punti che possono vincere lo scudetto. Io che sono tifoso interista sono a meno 8, non è che parlano molto bene dell'Inter. Però poi dopo a fine campionato può ancora andare in Serie D, però diamo a Ranieri quel merito che ha preso in mano una squadra che non sapeva né leggere né scrivere, adesso qualcosina di più sta facendo, ieri sera hanno preso 4 pali, hanno creato delle buone occasioni, ecco. Comunque rifaccio ancora gli auguri, buon Natale e a risentirci. Grazie Franco. Sì, Ranieri ha ereditato una situazione non facile, forse all'inizio si era complicato un tantino anche lui, gli è servito quel periodo a schiarirsi le idee, adesso mi sembra che siano più chiare. Poi non ci si può nemmeno nascondere che l'Inter in queste ultime giornate la rimonta la sta facendo grazie anche ad avversari non particolarmente agguerriti. Stiamo sempre parlando, potremmo tornare al discorso di prima delle 16 o delle 20 squadre, no? Ne ha trovate alcune consecutive non proprio irresistibili. Detto questo, un po' alla volta sta provando a rientrare, se stanno recuperando giocatori, ed è ovvio che la qualità la qualità complessiva dell'Inter non ha molto da invidiare, direi, a quelle di Milan e Juventus, anzi, no? E quindi semmai faceva notizia, intendo dire, faceva notizia l'Inter perché come era combinata prima rispetto all'organico, assai più di quanto non lo faccia oggi. Dante, Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Volevo fare questa osservazione, chiedere a lei il suo parere. Guardando la direzione arbitrale dell'arbitro Tagliavento di Udinese Juventus, si è vista una direzione arbitrale, chiamiamola all'inglese, con l'arbitro che lasciava correre diversi interventi, magari anche un po' duri, un po' particolari, sicuramente con la volontà di voler far giocare i giocatori, che peraltro io condivido perché mi sembra la direzione giusta a questo livello. Però non fa il paio con la direzione, l'interpretazione delle direzioni dei suoi colleghi, cioè mi pare che i colleghi di Tagliavento la vedono in maniera diversa, perlomeno buona parte di essi, e questo non può comportare a suo giudizio così un po' qualche perplessità nei giocatori che si vedono a volte gestiti in una maniera. Sì, ho capito Dante, ma è un problema vecchio come il mondo questo, cioè da un lato c'è un problema oggettivo di uniformità arbitrale. E questo è un problema vero. Dall'altro però c'è anche il rispetto delle professionalità di ciascuno, cioè c'è chi scrive in maniera brillante, c'è chi scrive invece in maniera più piatta, tutto è soggettivo e tutto è affidato in parte, no, la personalità di ciascuno. Poi è ovvio che il modello ideale di una classe arbitrale sarebbe quello dell'uniformità assoluta, ma non la si può pretendere, bisogna cercare di avvicinarci, sì, e questo può valere per tutti. Questa fase autunnale e inizio invernale del campionato mi sembra che complessivamente non sia stata diretta male, pur avendo avuto ovviamente qualche caso, qualche errore grave, e abbia suscitato qualche inevitabile perplessità, ma non più di altre stagioni, direi anzi meno, sinceramente. Qualche spunto statistico interessante anche da Novara Palermo: intanto il primo gol in Serie A di Mazzarani. Poi il fatto che Novara in 16 partite ha sempre preso gol, 16 su 16. Gol esterni del Palermo, c'era astinenza da 744 minuti, pensate, ed è arrivato un autogol peraltro di un novarese. E poi c'è una cosina da scongiuri per i tifosi del Palermo. Perché? Perché Muti è subentrato 3 volte su una panchina di Serie A, non ha mai perso l'esordio come ieri sera, però nelle 2 ultime stagioni è subentrato a Conte all'Atalanta e lo scorso anno a Ventura sul Bari, in una situazione peraltro disperata, e entrambe le volte è retrocesso. Damiano ha chiamato da Barletta, buongiorno. Pronto? Dica. Damiano. Ultimo appello, no, proviamo a richiamare. L'elogio da parte di Reia del suo portiere Bizzarri credo sia la migliore testimonianza del fatto che se una squadra doveva vincere ieri sera all'Olimpico non era certamente la Lazio, ma era il Chievo, che ha giocato una grande partita e che un po' è stato sfortunato sotto porta, soprattutto all'inizio quando ha colpito una traversa, e poi è stata fermata più che sbagliare i suoi attaccanti, è stato grande questo portiere Bizzarri. Sentiamo Reia. Purtroppo la squadra non aveva la benzina per poter opporsi al Chievo, che ha dimostrato sicuramente di essere una squadra organizzata, aveva più energie di noi sicuramente, non solo dal punto di vista fisico ma anche mentale. Arrivavano prima di noi, avevano un po' più di carburante. Purtroppo noi stiamo scontando certe assenze, anche infortuni in questa zona del campo, che lì è il fulcro del gioco. Noi purtroppo sono sempre quelli che giocano, già da un mese più a questa parte, con dei turni infrasettimanali. Lì si è andata bene perché abbiamo trovato un grande Bizzarri che ha fatto un 3-4 parate direi determinanti, ma anche, forse anche qualcuno più di 3 o 4. Saro da Catania, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, le faccio gli auguri di buon Natale in anticipo. Senta, volevo dire, Bizzarri per esempio, noi era un portiere del Catania, noi farebbe lo ricordiamo con nostalgia, perché il portiere attuale Andujar insomma è un po' carente. Io penso che se il Catania cambiasse questo portiere, la sua difesa molto perforata andrebbe molto meglio. Cosa ne pensa lei? Sì, può essere un'idea, però una partita come sera da parte di Bizzarri io sinceramente non la ricordo moltissimo, e quindi bisogna vedere. Io penso che sia, per carità, sia legittima la sua opinione, penso anche che il Catania abbia inteso scegliere per il meglio, e probabilmente ci sarà, chissà se c'è riuscito, ma lì la verità vera non esiste, no? Perché si va ovviamente a pareri, il più bravo è quello che sbaglia meno, eccetera eccetera. Lì possiamo andare di repertorio se vogliamo. E adesso c'è in linea un ascoltatore che ieri purtroppo non ha trovato spazio in fine di trasmissione, a cui avevamo promesso un ripescaggio in giornata. Giorgio da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Senta, non so se probabilmente io mi sono messo in contatto in questo momento con voi. Sì. Allora, la mia domanda era questa, cioè, Carantini. Innanzitutto complimenti, perché lei è veramente una persona molto qualificata sul calcio. Il discorso mio era questo, cioè coloro i quali hanno falsato praticamente il calcio, quindi la Serie A, la Serie B e compagnia bella, e persone che come me vanno due volte alla settimana a giocare la schedina, e voglio dire, io ho puntato su una squadra che probabilmente c'erano i mezzi perché la mia puntata poteva avere un valore, poi di fatto questi delinquenti hanno venduto le partite e quindi di conseguenza è stato falsato anche, diciamo, il totocalcio. Siamo stati truffati allora praticamente, quindi voglio dire, per persone come noi che in buona fede puntavano sulle partite, e le partite avevano praticamente seguito un percorso diverso e quindi non siamo, come si dice dalle nostre parti, a danno la beffa, non mi sembra giusto. Volevo sapere cosa ne pensava lei, signor Carantini. Cosa ne pensi? Non, è un problema che non mi riguarda personalmente, però capisco la rabbia, il dispetto, il dispiacere. Vale per chi gioca la schedina, vale per chi gioca le scommesse. Io credo che si giochi troppo sul calcio. Credo che la liberalizzazione totale e assoluta, mondiale peraltro, mica italiana, delle scommesse non abbia giovato. Penso che le squadre sponsorizzate che vengono sponsorizzate da agenzie di scommesse, secondo me non lancino uno straordinario messaggio tantomeno ai giovani, ma insomma in generale in assoluto. Dopodiché non è anche sempre difficile poi distinguere che cosa ci sia di vero fino in fondo, quanto queste partite siano. Sì, certo, in qualche caso c'è già qualcosa di acclarato in questa nuova inchiesta. Io sono anche convinto che ci sia molta mitomania. Sono convinto che anche in questo caso, come sempre quando c'è di mezzo il calcio, ci sia un minimo di protagonismo da parte di chi giudica e di chi indaga, ma insomma sono storie abbastanza vecchie tutto sommato, e da cui sinceramente non saprei indicare una linea di difesa. Vorrei indicare invece una lettura interessante per queste vacanze, che è un libro dedicato a Peppino Prisco. Peppino Prisco era se c'era un personaggio schierato nel mondo del calcio, era Prisco, non solo per quanto amava l'Inter, ma per quanto detestava in ordine sparso Milan e Juventus, o Juventus e Milan, non si è mai capito quale fosse l'ordine preciso del suo disgusto autentico per queste due squadre. Però tutto questo è sempre stato coltivato da parte dell'avvocato Prisco nel segno di una grande e divertentissima ironia, tant'è vero che era in eccellenti rapporti di amicizia con molti dei suoi bersagli preferiti, sia in ambito milanista che in ambito juventino. Adesso, a 10 anni dalla scomparsa dell'avvocato Prisco, è uscito un volume scritto da Marco Pedrazzini e Federico Iaselli Meazza, che sono i due stessi autori di cui avevo segnalato un anno fa un bel lavoro sulla figura di Peppino Meazza, e quindi da ex Cogita Editore c'è in libreria questo Peppino Prisco, una penna, due colori, non difficili da individuare. Damiano aveva chiamato la barletta e adesso dovremmo averlo ripescato. Dica, Damiano. Salve, signor Garanzini. Buongiorno. Salve. Io sono un tipo della Juventus e volevo porre questo quesito. Insomma, ieri la Juventus secondo me poteva fare qualcosa in più con l'Udinese. Io ho notato delle differenze da quando è uscito fuori Vucic. La Juventus sembra più una squadra, come dire, con una poca qualità. Visto che adesso l'Inter, anche lo stesso, la stessa Roma e la stessa Napoli dimostrano di avere un po' più di qualità. Damiano, mi scusi, ma è abbastanza chiaro quello che lei dice, ma dobbiamo ancora una volta è un tentativo semifallito questo, perché davvero non si riesce a intendere bene. Vucinic, ma certo, Vucinic è un giocatore di qualità e la Juventus ne sta accusando l'assenza, su questo c'è pochissimo dubbio. È un giocatore di piedi buoni e nella Juventus attuale non è che abbondino, di piedi buoni, di sensibilità, di senso del tempo, di scelta, di sapere quando è ora di rifiatare, di accelerare, di giocarla di prima. Cioè è un attaccante, è il, adesso non vorrei bestemmiare, non dal punto di vista realizzativo, dal punto di vista della manovra però certamente sì, è un po' l'Ibrahimovic della Juventus, no? È quello su cui ti appoggi, è quello che ti fa respirare, è quello che ti dà profondità, è quello che ti detta un po' i tempi. Secondo me è un signor giocatore, ovviamente poi ha dei limiti, no? Di indolenza soprattutto, di rendimento altalenante, se no sarebbe stato un campione di ben altre dimensioni con le qualità che ha. Credo che la Juve ne stia accusando un po' la mancanza. Non sono d'accordo sul fatto che la Juventus ieri sera si sia accontentata, perché io ho visto ancora negli ultimi minuti di recupero la Juventus provarci con i mezzi che aveva a disposizione, no? E subire anzi un contropiede pericoloso al novantesimo da Di Natale, che l'ha sprecato proprio perché c'era da parte della Juve l'intenzione palese di provare ancora a vincere la partita. Quindi se poi Conte, rispondo ancora a un ascoltatore di prima, se poi Conte si dichiara compiaciuto di questa Juventus, beh, insomma, mi pare che ne abbia tutti i diritti, se non si stanca di ricordare dove era la Juventus un anno fa e due anni fa e dov'è adesso, mi pare che abbia tutto il diritto di farlo. Se poi si pensa addirittura che questa Juventus è imbattuta, e lo ricordavo ieri, non accadeva addirittura al 49-50, quindi non era riuscita a restare imbattuta per 16 partite la Juve di Sivori e Charles, la Juve di Platini e Boniek, di Paolo Rossi, di Tardelli e tutti gli altri, di Zoff, la Juve di Lippi e quante ne volete ancora. Beh, insomma, questa invece lo è, e non mi pare proprio una squadra che gioca per l'imbattibilità, cioè che gioca pensando innanzitutto a difendersi. Io sinceramente questo dato non lo colgo, anzi mi sembra abbastanza al contrario. Secondo lei, domanda Pasquale, SMS, Boriello sarebbe il giocatore giusto per la Juventus? Io ho dei dubbi, scrive, e io li condivido. Daniele, provincia di Savona, buongiorno. Buongiorno, Antonio Garanzini, buongiorno. Senti, io volevo parlare del Genoa, perché dopo il punteggio tennistico di ieri sera, penso che abbiamo raccolto più di quanto abbiamo seminato. 21 punti non sono pochi, però mi sembra che la squadra non ci sia, in trasferta raccogliamo poco e in casa abbiamo avuto molta fortuna. Sia col Novara, col Bologna, volevo sapere cosa ne pensava. Forse Boriello servirebbe a noi. Sì, questo sì, guardi, non posso che ripetere, lei ha, evidentemente non era collegato prima, ha ripetuto, no? Ma questo mi fa piacere, esattamente quello che avevo detto. Quelle due partite con Novara e col Bologna, se andava regolare il Genoa le perdeva, e adesso 15 punti sarebbe, o a 16 magari con un pari strappato in qualche maniera all'uno o all'altra, adesso sarebbe combinato davvero male, e però la sua classifica rispecchierebbe forse un po' di più la qualità di quello che ha mostrato quest'anno. Roberto, Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno Grazzini. Niente, io volevo dire una cosa. Io oggi, quando c'è il giocatore in mezzo al campo e il giocatore avversario è costretto a buttarsi il pallone, quando l'infortunio è grave, d'accordo, però c'è anche un arbitro che fisca quando un fallo è grave, cioè quando c'è un giocatore per una buona motivazione. Sì, sì, certo. Altro annoso problema, nel 2011 non si è risolto, le posso anticipare che non si risolverà nemmeno nel 2012, ma glielo metto per iscritto sin da ora. Vogliamo sentire per il 22 dicembre che cosa ha scovato Nicola Filippone? Sembra ieri. 22 dicembre 1946, la Juventus cade a Modena. Gli emiliani si impongono per 1-0 con gol di Bonci sui blasonati avversari bianconeri, tra cui i modenesi Sentimenti terzo e Sentimenti quarto. Il Modena, una formazione composta esclusivamente da giocatori provenienti dalle serie inferiori, aveva già dimostrato di avere spessore, soprattutto tra le mura amiche, dove prima della Juve aveva sconfitto il Milan e in seguito batterà l'Inter. E non saranno imprese isolate. A fine campionato la squadra emiliana sarà addirittura terza, preceduta solo dal Torino e dalla Juventus. Oggi è anche il compleanno di Bergomi, che ne compie 48. Auguri, me lo segnala un ascoltatore da Ravenna di nome Simone. Scrive Giancarlo Bini, dice: se la mia Juventus avesse concretizzato la superiorità espressa sul campo nelle partite mie qui disputate, avrebbe potuto contare su qualche punto in più. Lui scrive 6-8, a me sembrano un po' tantini, ma insomma. Il sommo Brera, continua Giancarlo Bini, avrebbe scritto del rischio di morire di sé medesima. Credo che tale rischio sia ben presente senza una conseguente e adeguata dote di punti. Che ne pensa? Lo dicevo già ieri, che la Juventus può permettersi di correre a questa maniera perché non ha le coppe, però nonostante questo insomma il dispendio psicofisico anche dal punto di vista della concentrazione feroce è tale che indubbiamente con i primi caldi qualche problemino potrebbe affacciarsi, e in ogni caso la riprova viene dal fatto che in due partite ravvicinate, tipo quelle di domenica e di ieri c'era davvero, al di là del valore dell'avversario, c'era davvero meno brillantezza, decisamente meno brillantezza da quel punto di vista rispetto ad altre uscite. Massimo dalla Spezia, buongiorno. Buongiorno Garanzini, auguri, buon Natale a tutti. Sì. Una provocazione e una considerazione. Io, se fossi un dirigente della Juventus, comunque il presidente della Juventus, ed è un consiglio che gli do, lascerei perdere la questione Calciopoli, gli avvocati e tutto quanto, alla luce anche del ritrovato entusiasmo, del gioco, della voglia, anche grazie all'allenatore, e mi concentrerei soltanto sul lato tecnico per cercare di rifare un ciclo. Ma solo dal punto di vista tecnico, lasciare perdere gli avvocati. Cosa ne pensi? Beh, insomma, è soltanto qualche anno che si prova sommessamente a suggerirlo. Era una linea che la Juventus di prima aveva sposato, e che invece la nuova linea aggressiva della presidenza Agnelli mi pare invece abbia abbiurato. Sarà divertente l'anno prossimo, se la Juventus vincerà lo scudetto, è come vederlo sin da ora, no? Vedere la Juve che si decora la maglia con la terza stella, perché ovviamente ne conterà 30, mentre no, per la federazione sarà arrivata, per la federazione, per il calcio italiano credo sarà arrivata soltanto a 28. Sarà un bel momento, dovesse capitare, io credo. È giusto portarsi avanti, no, con queste riflessioni, secondo me. Alberto Torino, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Io volevo rifarmi alla trasmissione di ieri, dove lei a un certo punto ha trasmesso un messaggio di Cristiano Doni che mi ha molto colpito. Premetto, sono anch'io tifoso juventino, mi ha colpito in quanto a un certo punto del messaggio lui ha detto: ma per chi ci prendete? Noi non siamo la Juve di Calciopoli. Io penso che questo personaggio, posto che ritengo, non voglio entrare in una cosa già rivista e stravista in questi ultimi 5-6 anni, perché ognuno poi ha la sua corrente di pensiero, io la penso da juventino ovviamente, io penso che questo personaggio in tante partite, anziché mettersi la mano sul mento, che stava a dire che lui era sempre a testa alta, avrebbe dovuto pensare di dire queste parole, pensare a quello cui lo stanno dicendo i fatti, poi sarà tutto da provare, ci penserà chi di dovere, chi è preposto a farlo, anziché sparlare di altre cose che evidentemente non dovevano vedere lui come principale attore, avrebbe dovuto pensare più a se stesso, visto quello che sta emergendo. Questa è una considerazione. La domanda che volevo fare a lei invece, e sempre da juventino ovviamente, l'anno scorso dopo il rigore fasullo dato a Krasić a Bologna, io quest'anno per la stessa identica cosa su Boateng non mi pare di aver visto, letto o sentito le stesse considerazioni. Ecco, volevo un suo parere su questo. Il mio parere era che quel rigore rubato da Krasić a Bologna arrivava al culmine di una serie di tuffi di questo giocatore uno più imbarazzante dell'altro, di una serie di episodi, quindi, no? Boateng in genere invece è un giocatore un po' meno teatrale, che l'altra sera ha sbagliato quasi alla stessa maniera, quasi alla stessa maniera. La differenza è che, secondo me, per quel poco che ricordo dell'episodio Krasic, era che Krasic proprio non aveva avuto contatto e si era letteralmente buttato, no, come in piscina, da truffatore vero e proprio. Boateng l'altra sera l'ha fatta da furbo, cioè da furbo ovviamente lo dico in senso molto negativo, nel senso che è andato a cercare ad ogni costo l'impatto sul portiere. Trovando l'impatto l'ha usato per un tuffo. Se lei ha giocato a calcio una leggera differenza c'è e credo che la spiegazione la convincerà. Se lei non ha giocato a calcio non ho difesa, sinceramente. Manolo ha chiamato da Fermo, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Sì. Ascolti, io sento sempre parlare di questo fatto che la Juventus, non avendo le coppe europee, potrebbe essere favorita nella corsa per lo scudetto. Ma da milanista quali sono, perciò me lo auguro, lei non pensa che una squadra che partecipa magari alla Champions e magari va avanti nei turni a seguirsi poi magari acquisisca un carico di entusiasmo tale che superisca questa situazione fisica, insomma, altra questione leggermente annosa, nel senso che può essere vista da destra così come da sinistra. Le vittorie aiutano a vincere, le sconfitte aiutano a perdere, l'entusiasmo è ma anche senza l'entusiasmo il risultato positivo è il miglior modo per eliminare le tossine che ti si accumulano a causa delle fatiche. Le sconfitte invece al contrario sono aggiungono stress e quindi aggiungono sale sulle ferite delle stanchezze, insomma dei surplus di lavoro, di affaticamento. Però è anche vero che poi arriva un certo momento in cui la somma delle fatiche comincia a essere eccessiva. Non c'è una regola, dipende da tanti fattori. Diciamo che l'età media del Milan non depone molto a favore del fatto che andando avanti l'entusiasmo potrebbe compensare la fatica, perché l'entusiasmo ci sarebbe certamente, ma magari inferiore ad altri che non hanno mai vinto il campo europeo. In compenso la fatica a 30 e fischi anni di media, con punte di 35-36 per giocatori chiave, potrebbe essere leggermente più preoccupante. Sento una musichetta sullo sfondo che mi suggerisce a questo punto di ringraziare Roberto Scaltritti in regia, Franco Piantanida in redazione e di augurare buon Natale di cuore a tutti voi.